Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, so che vi piacciono le sorprese e ho pensato di accontentarvi oggi pomeriggio organizzando una puntata assolutamente spiazzante e inattesa su Mourinho. Originale, evidentemente, come trovata, ma a questo punto non è più un diritto di cronaca, credo sia diventato un preciso dovere dopo gli ultimi sviluppi e le dichiarazioni di ieri, che diciamo, un minimo di rumore mi pare l'abbiano fatto. Personaggi e interpreti di questa puntata, nelle vesti grosso modo di PM, il pubblico ministero, il sottoscritto, nelle vesti di difensore non credo proprio d'ufficio, ma poi vedremo invece in che modo si calerà nella parte, Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. Mauro Meazza è responsabile del Dipartimento Norme e Tributi del Sole 24 Ore, i più affezionati tra di voi all'ascolto di Radio 24 nel corso della giornata sanno di che spessore siano i suoi interventi nella sua materia, e adesso, come già accaduto d'altra parte in passato, forse non recentissimo, lo apprezzeranno o non lo apprezzeranno in questa veste nerazzurra. Teste probabilmente a discarico, il professor Giorgio Simonelli, collegato telefonicamente con noi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professor Giorgio Simonelli, come sapete, è un docente di storia del giornalismo, storia della televisione, storia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano e mi pare particolarmente indicato alla bisogna. Do qualche elemento innanzitutto, perché se si istruisce un processo, un minimo di rispetto delle regole serve. E allora io direi innanzitutto di ascoltare i passi chiave dei 7 minuti già diventati celebri ieri di Mourinho in conferenza stampa, e poi vi darei conto delle prime, non delle primissime di ieri, ma dei più significativi commenti e reazioni apparsi oggi in particolare sulla stampa italiana. Via il primo Mourinho. Non capisco perché io sono il bravo, perché io solo parlo alla stampa obbligato. Io parlo alla stampa obbligato, per contratto. Io sono qua con voi perché mi dicono che devo farlo. Dopo la partita io vado alla stampa perché mi dicono, per contratto tu devi farlo. Ranieri e Spalletti sono prime time. Io ogni volta che arrivo nello spogliatoio, il giorno della partita, clic, Spalletti in stampa. Sempre. Lui parla alla stampa prima della partita, all'intervallo, dopo la partita, parla con uno, parla con l'altro, è amico di Laria, è amico dell'altro, è amico di Mauro, è amico di tutti, parla con tutti. Io che sono il bravo? Io solo parlo perché mi dicono che devo per forza parlare. Se Viganò mi dice, Giuseppe, tu per 2 settimane non parli alla stampa, fantastico. Io che sono il bravo? Io non parlo alla stampa. E chissà qualcuno paga per parlare alla stampa, io rifiuto interviste in cui mi pagano a me. Quando si dice che Ranieri e Spalletti al fianco uno dell'altro, io sono al fianco di Zenga, di Prandelli, di Del Neri. Beh, prima ha scaldato i motori, poi è arrivato da fondo. Questi sono, secondo Mourinho, le vittime di un preteso sistema Juventus sul campionato. La seconda parte dell'intervento di Mourinho. A me non mi piace prostituzione intellettuale, mi piace onestà intellettuale, perché negli ultimi 2 giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con 0 titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con 0 titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errore arbitrale. Manca poi la parte, insomma, non possiamo neanche andare avanti tutta la puntata, manca poi la parte secondo cui Torino e Udinese domenica dovrebbero spedire in campo la primavera, perché tanto contro Juventus e Roma il risultato è già scritto. Allora, prima di questo giro di opinioni che ci terrei a leggervi per completare il quadro informativo, anche magari non certamente per orientare i vostri commenti, ma insomma, ma per ampliare il panorama, Mauro, Mauro Meazza, primo commento, primo intervento. Ma il primo intervento che vorrei fare è in due parti. Allora, premesso che trovo come giornalista, prima che come interista, è assolutamente adorabile avere un personaggio come Mourinho nel panorama nostro. e poi magari circostanzierò meglio anche questa posizione. E ritengo però che tutto questo poi, al di là dei toni, vada sempre tenuto nello spirito del divertimento, quindi quello che andrò a dire deve essere sempre preso nello spirito di divertiamoci a parlare di queste cose, divertiamoci a parlare di Mourinho e anche del suo utilizzo assolutamente inconsueto di termini che abitualmente nelle conferenze stampa non erano così... Non figurano. Sì, non erano tanto cittadini. Lui ha sdoganato non solo qualche parola pesante, come nella sua prima conferenza, quando si autodefinì, sì, ma anche questioni quasi metafisiche. Adesso qui fa questo binomio prostituzione intellettuale, onestà intellettuale. Insomma, pur nella sua nel non essere madrelingua italiana, evidentemente ha una notevole capacità di utilizzare i termini in un modo assolutamente inatteso e spiazzante qualche volta. Questo mi sembra che gli vada riconosciuto comunque, a prescindere da quello che ha detto ieri. Ecco, allora scusami, visto che si sta parlando di l'hai messa sul piano preliminarmente sul piano della comunicazione, andiamo da un docente di comunicazione come Giorgio Simonelli. Devo dire, allora premetto anch'io, forse gli ascoltatori anche lo sanno, mai visto che ogni tanto mi invitate, non sono interista, però devo dire che Mourinho mi è molto simpatico e devo dire da ieri mi è ancora più simpatico, non tanto per il contenuto delle cose che dice, no, ma proprio perché, come diceva Meazza, insomma, è interessantissimo il linguaggio che lui usa, no? Le parole che lui usa e la capacità di innescare un cortocircuito incredibile. Io ho qui davanti a me la prima pagina di Repubblica, dove c'è un titolo: il leninismo di Mister Mourinho. Faccio una domanda a voi che siete giornalisti: da quanti anni non appariva la parola leninismo nella prima pagina di un giornale? Sì, è vero, è verissimo. È una cosa incredibile. È verissimo. Il PM allora, è disposto ad ammettere. Questa sua capacità di lui che non è di madrelingua italiana di buttare lì sul tavolo dei termini che poi scatenano altri termini, quindi con una fantasia terminologica e a volte anche poetica a cui non eravamo più abituati da tempo. Io stavo pensando, no, che cosa direbbe un personaggio, Garanzini, che tu conosci bene, cosa Nereo Rocco di fronte alla parola prostituzione intellettuale, bene, o cosa avrebbe detto questo Oronzo Pugliese, probabilmente alcuni allenatori che di fronte a queste parole inorridirebbero. Però Mourinho ha questa capacità. Beh, Oronzo Pugliese gli serviva la simultanea anche di fronte a certe terminologie. A me ti dirò che viene più in mente Prisco. Mi viene più in mente Prisco nel senso che Prisco sapeva essere più greve concettualmente in certi casi, ma aveva tutt'altra lievità e oltretutto era molto sensibile, qui comincio la mia parte di PM, era molto sensibile anche a vedere cosa c'era fuori in quel momento storico e cioè com'era da un punto di vista sociale la situazione generale. Ora, mi pare che dal 2006 a oggi, mi rivolgo a tutti e due, poi scegliete voi chi vuol rispondere, dal 2006 a oggi la situazione che si è creata tra Juventus e Inter, ma non parlo di società o di giocatori, sto parlando di masse e soprattutto delle masse deviate che non sono così piccole, mi sembra che suggerirebbero una cautela che Prisco certamente avrebbe adottato. Io trovo che nelle parole di Mourinho ci sia invece un tasso di irresponsabilità altissimo. A chi tocca? In ordine alfabetico Meazza, prego. Avrei passato volentieri perché l'obiezione è fondata, per carità. In questo momento, e conoscendo anche certe cattive abitudini del nostro calcio, che poi non sono solo del nostro calcio, è facile anche che le cose poi degenerino. Allora, dalla provocazione intellettuale, magari anche accesa, magari passionale, che abbiamo visto ieri nella conferenza di Mourinho, poi si passi ad equivalenze un po' balorde con episodi, insomma, che invece andrebbero quanto mai contenuti. Su questo devo onestamente ammettere non era forse il momento più adatto. Invece però era il momento molto adatto di attirare su di sé, come è abitudine di Mourinho, l'attenzione dei media e quindi di scaricare in qualche modo le tensioni sulla squadra. Si va verso un ritorno decisivo di Champions League. In questo momento la squadra, a giudizio di Mourinho, evidentemente non ha bisogno di avere addosso la stampa, molto meglio se la stampa ce l'ha addosso Mourinho, e questo è una cosa che lui fa spesso. Questa è una strategia ben precisa. Tra poco vi leggerò quello che ha scritto Paolo Condò stamane, perché è assolutamente funzionale a questo. Il titolo di Condò, devo dire che stamattina ho sentito, non per la prima volta, ma in maniera particolare ho avvertito forte l'assenza di Candido Cannavò, sinceramente, perché sarebbe stata la prima cosa che sarei scorso a leggere, e sono certo che la pettinata che Cannavò stamattina avrebbe riservato a questo special Cialtruan, dal mio punto di vista di PM, sarebbe stata memorabile. Paolo Condò, comunque, senza essere Cannavò, perché ce n'era uno, se l'è cavata secondo me benissimo. Professore, andando avanti sull'intervento di Mauro Meazza, mi sembra che lui abbia introdotto una cosa che, insomma, che tu potresti sviluppare, e cioè, per pura combinazione, le ultime due sparate, ricordo che la penultima di Mourinho risale allo scorso mercoledì, quando disse che l'Inter era stata danneggiata dall'arbitro contro il Manchester United. Combinazione, queste due ultime sparate di rara pretestuosità, parlo da PM, sono arrivate all'indomani di due prove balbettanti dell'Inter, soprattutto la prima. Io sono scettico sui vostri timori. Io non ho mai visto un legame tra di verbi, anche eccessi verbali giornalistici e violenza negli stadi, se è questo a cui vi riferivate. Proprio è un legame che fatico moltissimo a credere, che fatico moltissimo a vedere, perché poi i grandi incidenti, insomma, accadono quando meno ce lo si aspetta. Ecco. Quindi credo che si può giudicare inopportuna, maleducata, tutto quello che si vuole, ma questo timore, sperando di non essere smentito dai fatti, ecco, però mi espongo, questo timore io proprio non lo vedo. Vedo invece, in questo sono d'accordo con Mauro Meazza, una sua strategia dell'attenzione, come diceva esponente democristiano della Prima Repubblica. Cioè, che cosa è accaduto? È accaduto che Mourinho, mi sembra che si senta un po' insicuro, ecco, si sente un po' insicuro, e credo che gran parte dell'insicurezza gli derivi dai timori fondatissimi di non superare il turno a Manchester. Adesso forse qualcuno lì. Io andrei avanti. Sì. E che questa situazione lo spinga, insomma, a esternare in queste forme, che sono un po', come dire, le forme di chi un po' di timore forse ce l'ha, insomma, e quindi comincia a mettere le mani avanti. E questo però è anche un modo per dare la carica alla squadra. Sì, cioè, tu dici insicuro. In un altro passaggio che non abbiamo sentito, lui dice che non vede l'ora, in pratica, che arrivi il 30 giugno per poterci dire arrivederci. Allora, io noto questo, sempre da PM, stavolta mi rivolgo di nuovo a Mauro Meazza. Allora, lo scorso anno Mancini disse una frase del genere che gli costò la panchina, e la disse a partita persa. Lui questa la dice prima ancora di giocare, ma a proposito di insicurezza, se lui dice che il 30 giugno dirà arrivederci, beh, a me sembra ottimista, perché non è poi ancora da escludere invece che debba dire un'altra parola più breve, no? Che è un saluto più definitivo. Vabbè, io su questo, anche per scaramanzia, mi rifiuto un interista apposta, è ovvio. No, posto che, facendo sapere a tutti gli ascoltatori interisti che sto facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili in questo momento, però, ripeto, mi sembra che le accuse di Mourinho, al di là della strumentalità, cioè del fatto di utilizzare le conferenze stampa per dire quello che vuole lui, infatti è un monologo il suo, certo, e non farsi chiedere quello che non ha voglia di farsi chiedere, e devo dire pure noi interisti avremmo delle cose da chiedergli, ad esempio sulla formazione del primo tempo di domenica sera, però certo, lui riesce a non farsele chiedere e a spostare invece le attenzioni e le tensioni tutte sulla sua persona, sul suo personaggio addirittura, neanche sul lavoro che fa. Su questo devo dire è quasi invidiabile, perché trovo che sia un modo di operare che ti mette un po' al riparo dalle critiche, quasi esponendoti magari ad altre tensioni, ma sicuramente non ti fa subire le critiche. Però lui dice una cosa che secondo me non è mica così falsa, cioè a un certo punto la sua frase che abbiamo ascoltato all'inizio, io non rifiuto interviste per le quali addirittura mi pagano, io non sono una specie di, come dire, personaggio che è un tutt'uno con il sistema dei media, mm-hmm, eccetera, ma vado per la mia strada. Secondo me questa cosa c'è parecchio di verità, cioè il calcio parlato, che probabilmente è tanto, forse da noi forse un po' troppo, spesso è un po' autoreferenziale, cioè è tutto un scontri che si sa che avverranno, accordi che si sa che ci saranno e commenti di opinionisti più o meno preparati, titolati per commentare, che in realtà sembrano tutti strumentali a tenere sul baraccone, ecco. Allora arriva un Mourinho e dice: sentite, io non sono qui a fare il pupazzo per entrare, sì, nel vostro sistema. Io faccio il mio lavoro, me ne vado, questo è il, mi tocca per 91 giorni ancora di sopportarvi, dopodiché me ne vado in vacanza. Vediamo se sarà una vacanza. Comunque, a parte questo, io devo dirvi sinceramente, so che voi siete rispettivamente difensore e un altro a discarico, devo dirvi che quando mi è arrivata pochi minuti fa la pagina di 24 minuti di oggi pomeriggio, il pomeridiano, il Sole 24 Ore, e ho visto il titolo Mourinho al test Cassano, sono andato a leggermi immediatamente che cosa significava, perché è vero che stasera Cassano guiderà la Sampdoria contro l'Inter in Coppa Italia, ma Cassano, e infatti il testo firmato a Nicola Filippone lo ricorda, è anche il cognome di un grande psichiatra di fama mondiale, non lontanissimo da Genova, perché opera a Pisa. Arrivano all'intervallo i primi riconoscimenti. Mauro Meazza molto sportivamente riconosce che questa cosa che ho coniato oggi, Cialtruan, ti è piaciuta? Cialtruan, devo dire, la trovo spiritosa. Spiritosa. È già qualcosa. Vale, non ho anche detto che la condivido. No, certo. Vale per il comunicatore anche? Cialtruan è... Sì, è carina, sì, eh? È un neologismo che potrebbe avere fortuna. Bene, sarei felice di questo, perché sentire questa invece, provate a dire chi ha scritto questa frase. Quando non parlano di calcio, i Moratti sono gente magnifica di simpatia grande. Il calcio li guasta un poco, loro come tutti. Questo me l'ha spedito stamattina un fedelissimo ascoltatore che si chiama Simone De Gregori, da San Bonifacio, provincia di Verona. La rileggo. Quando non parlano di calcio, i Moratti sono gente magnifica di simpatia grande. Il calcio li guasta un poco, loro come tutti. L'arcimatto di Gianni Brera, il 20 novembre del 61. Carina questa, eh? Profetico. Non posso che ringraziare Simone De Gregori, perché questa è davvero una cosina spiazzante. Vi dicevo prima, giustamente dal suo punto di vista, io non sono tanto d'accordo, il professor Simonelli contestava il nesso di causa-effetto, no? Io forse sono un po' scettico di carattere. No, però... no, d'accordo, pericolosità delle parole . E conseguenze. D'accordo, non sarà così, speriamo soprattutto che non lo sia, io non ci credo, perché la penso come, adesso devo trovare un'agenzia di Garrone, ecco, Garrone, presidente della Sampdoria e come è noto petroliere a sua volta, quindi un po' si intende di questo di materiali infiammabili, ha detto stamattina: in un'attività sportiva come il calcio, da un fiammifero si possono far scatenare le fiamme. Credo che tutti i dirigenti più autorevoli, soprattutto quelli delle grandi squadre, dovrebbero moderare un po' certe uscite. Mourinho è aperto e sincero, e qui sta con voi, ma bisogna sempre stare attenti a non alimentare tensioni tra le tifoserie, che è uno degli aspetti più delicati del calcio. Posso fare una domanda provocatoria? La faccio. Ma secondo voi i gruppi ultra, così, insomma, il tifo violento, sa il significato della parola prostituzione intellettuale? No, questo no. Però conoscono bene il giro delle partite doppie dei rigori cervellottici e interpretati in un certo modo. Questo è il problema. Non certamente la prostituzione intellettuale, cosa vuoi che gliene freghi? Io, guarda, da vecchia mignotta, anzi, intellettualmente, come direbbe Mourinho, certamente non sarà questo che mi turba. Mi turba il fatto che non solo che lui stravolga la realtà su uso e consumo, come fece dopo Inter Manchester il presunto arbitraggio, come ha fatto domenica sera, ma mi turba il fatto che lui vada a colpire certi bersagli, in particolare in direzione juventina e romanista, quando la rivalità è per dire che è accesa già si usa un eufemismo, insomma. Ma... sì, guarda, io a malincuore, perché contrasta col mio ruolo, però sono più dalla tua parte che non da quella del professor Simonelli, nel senso che è vero che la tifoseria organizzata poi, diciamo, chiamiamola così con un termine molto benevolo, gli ultra, insomma quelli che vanno allo stadio per fare casino, sicuramente non stanno a filosofeggiare sul termine di prostituzione di onestà intellettuale, però è anche vero che poi questo tipo di tensioni vengono ridotte all'essenziale e interpretate come sfogatoio, come occasione, come pretesto per gli atti più beceri. Allora su questo si passa dal divertimento che dicevo prima, è bello stare qua a parlarne, dire ma no, in fondo Mourinho ha ragione, Mourinho ha torto, è divertente. Beh, e in tutta Italia credo non si parli d'altro quando si parla di calcio oggi è assolutamente. L'importante appunto è mantenere sempre un sano distacco che ci fa anche rispettare l'interlocutore, poi perché appunto ci può anche essere molto critici nei confronti del monologo di Mourinho e scambiarsi delle opinioni in perfetta serenità, insomma. Citava prima Giorgio Simonelli, citava l'intervento di Berselli sulla prima pagina di Repubblica con quell'aggettivo leninista. A un certo punto Berselli scrive anche: nella sua fusion culturale tra memorie salazariste e slanci guevaristi, fra la tradizione spirituale e il guerriglia marketing, Mourinho ha una visione realistica, eccetera eccetera eccetera. Passerei il colpo, andrei su un altro commento, sinceramente, perché, ripeto, non disponiamo della simultanea. Passerei per esempio a Giancarlo Dotto, che sulla stampa scrive, anzi conclude un lunghissimo commento, lo conclude così: manipolatori gli altri, impressionante come Mourinho non si renda conto di raccontare se stesso quando è convinto di raccontare gli altri. Ogni sua uscita pubblica è fin troppo meditata, titoli, svenimenti, stupori ogni volta che apre bocca. Quando ha tirato fuori dal cilindro la parola empatia, non si era mai sentita nel mondo del calcio, sono venute giù le tribune. Non sono il migliore, ma nessuno è migliore di me, la sua perla. Non vuol dire nulla, ma la gente sta ancora lì a strizzarsi il cervello e non capisce, ma comunque gli è riconoscente. Certo, possiamo ora dire di saperlo il vero movente che ha spinto questo non comune personaggio a una così rapida e forbita acquisizione della nostra lingua. Rispetto di una nazione? No, smania di acquisire in fretta lo strumento per dimostrare a un paese intero quanto fosse fortunata nell'ospitare, senza meritarlo, un simile genio. L'abile nel calcio come nella vita non sa Mourinho, è il confine tra il genio e la macchietta, come tra l'uomo e il caporale, quasi sempre convivono nella stessa panchina. Non è male questo passo qua, Giorgio, Sì, però io sono invece non vedo il rischio della macchietta, non vedo neanche, anche se mi è piaciuta la definizione, non vedo neanche il rischio della cialtroneria, se non proprio, insomma, così molto molto vago, lontano. Cioè la personalità è davvero così forte, e l'analisi di Berselli, che vabbè, non stiamo a fare dell'analisi sull'analisi, però insomma danno uno spessore drammaturgico al personaggio, ecco, che il rischio della macchietta è molto lontano, a me sembra molto lontano. Siamo uomini e non caporali, perfetto. Allora, invece a Meazza, cioè alla parte, insomma, all'avvocato difensore e poi all'interista, sottopongo invece Paolo Condò, che scrive. Scrive delle trappole preparate da Mourinho. Prendiamo il famoso rigore fasullo, perché era fasullo, scrive Condò, concesso a Balotelli. Mourinho è andato a Sky ad appiccare l'incendio, definendolo giusto e sostenendo che essere danneggiata era stata semmai l'Inter per un fallo su Cambiasso. Spalletti è saltato in aria, offrendosi al facile e letale contropiede di Mourinho, perché è vero che la Roma ha tanti campioni, per quest'anno difficilmente vincerà un titolo, eccetera eccetera eccetera. Se però a fine gara Mourinho avesse ammesso il vantaggio ottenuto, il caso si sarebbe sgonfiato subito e il tecnico non avrebbe ottenuto il suo scopo, portarsi avanti nell'opera di condizionamento dell'arbitro di Juve-Inter. Questo è il pensiero dell'articolo di fondo della Gazzetta dello Sport. Più maliziosamente, diciamo, la tesi di cui si discuteva prima, cioè la capacità di spostare le attenzioni su quello che della squadra può non aver funzionato e invece di portarlo su un altro piano. Devo dire che quell'uscita post partita che ho visto anch'io è stata sorprendente per molti versi. Naturalmente io da interista devo sostenere sempre soltanto una tesi, quindi è rigore, ma l'uscita di Mourinho è quasi spavalda, se vogliamo guardare la sua dichiarazione di domenica sera, è quasi spavalda. Spavalda. Rigore sacrosanto, anzi, addirittura c'è un fallo di Battista su Cambiasso che non è stato rilevato dall'arbitro. Ma noi siamo un po' naif, dice Mourinho, così pescando un'altra delle perle tra empatia e le altre perle di cui si diceva però prima. Senti, anzi sentite, prima di intervallo più lungo, spavalda, empatia... Io trovo che questo sia veramente cialtronesco. Faccio un piccolo esempio. Da un uomo di calcio, sia pure di parte, io non mi aspetto mai l'interpretazione che può darmi un tifoso qualunque. Vi leggo una mail che ho ricevuto stamattina, perché è carina secondo me, firmata Sergio Arcolè, è un palermitano che scrive: mi fa capire dove è stata la grandezza del Catania domenica scorsa. Io ho visto la partita, ho visto un Palermo che, giocando in 10 per l'eccessivo impeto di Bresciano, ha giocato sempre nel campo avversario, producendo almeno 10 palle gol nette, e la cosa che mi è piaciuta di più è stata nella perseveranza della squadra sino alla fine. Hanno continuato ad attaccare fino al 90esimo e devo dire che non è da tutti. Il Catania ha avuto la fortuna di compiere 4 tiri, solo 4 tiri, e tutti finiti in rete. Cioè, io mi aspetto che un tifoso scriva una roba del genere per commentare uno 0-4 in casa. Non mi aspetto uno stravolgimento della realtà da un tecnico. Ecco, questo è. Rifletteteci. Allora, torniamo e diamo spazio magari all'intervento degli ascoltatori. Moltissimi hanno scritto. Io ho selezionato due o tre in particolare delle mail arrivate nel frattempo. Filippo Antonelli, e la giro a Giorgio Simonelli. Filippo Antonelli scrive: finalmente qualcuno, e cioè tu, Giorgio Simonelli, che dietro a dichiarazioni esplicite come quelle di Mourinho ci evita il consueto riferimento alla irresponsabilità civile e alle polemiche come elemento scatenante della violenza negli stadi, prassi ormai consolidata tanto nello sport quanto nella politica, ogni volta che si ha il coraggio di essere voce fuori dal coro. Quindi un consenso per il test a discarico, la conferma che Mourinho è proprio bravo e che anche lei, che sarei io, perde in lucidità, scrive Andrea Busnelli. Ma subito dopo arriva un altro messaggio che dice che effettivamente Cialtruan non è malissimo come neologismo. Su questo c'è l'unanimità. C'è l'unanimità, fantastico. Concordo. È abbastanza fiero di questa cosa, perché poi quando vengono così sono le migliori. Augusto da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Grazie. Io volevo chiedere solo un suo parere e forse anche il parere di quelli che sono lì in studio. Sì. Ma è più grave l'atteggiamento che ha avuto Balotelli, che ha fatto discutere tanto perché ha zittito quelli che per 50 minuti gli hanno fatto buu, o quello di Totti, capitano di quei giocatori che si sono lamentati, che è con la maglia della nazionale ci ha fatto vergognare tutti sputando in faccia a uno? Augusto, non la seguo, cioè faccio veramente fatica. Io le dirò una cosa, per non tornare sempre alle guerre puniche, se quando si possono evitare, io farei un riferimento diverso invece. Direi che qualcuno dice: Mourinho vi dà tanti argomenti, cose, eccetera. Io trovo invece che, come nel caso di oggi, in cui, ripeto, è un dovere di cronaca e non un diritto, cercare di sviscerare, capire, andare oltre, riflettere insieme, eccetera, su una cosa così apparentemente incomprensibile, o forse incomprensibile in assoluto. Mourinho, per esempio, ha messo la sordina a una cosa molto grave, che è questa. La Roma, sto parlando di tifoseria in questo caso, non certamente di squadra e nemmeno di società. La Roma se l'è cavata, e dico cavata a buon diritto, con 8.000 euro di multa per i bu e per i cori razzisti nei confronti di Balotelli domenica a San Siro, trattandosi di una tifoseria che dovrebbe essere stata squalificata da tempo, parlo del campo, per le continue e ininterrotte puncicate, così le chiamano, no? A Roma, dei suoi ultra, parlo di coltellate, dei suoi ultra ad alcune tifoserie viaggianti che si permettono di far loro visita dalle parti dell'Olimpico. Io credo che questa sarebbe stata la vera, buona, prima occasione per dare un segnale forte e squalificare una volta per tutte quello stadio, proprio per questo comportamento ignobile. Le sciocchezze di Mourinho e le sue a sua volta pericolosità, anche se sono in disaccordo con il professor Simonelli, hanno impedito questo, e lo trovo particolarmente grave. Tra l'altro la motivazione è perché la società ha adottato la motivazione di questa sanzione così mite, perché è mite, su questo non ci sono discussioni, è altro che mite, che la società ha adottato una campagna di prevenzione delle, delle intemperanze da parte del pubblico, quindi si riconosce in qualche modo una buona fede da parte della società, però questo non toglie il problema, cioè la è una decisione questa che non decide molto, perché se i cori razzisti vanno puniti severamente, come avevamo cominciato a fare peraltro, perché certo, mi risulta certo, che ci fossero state sanzioni molto più pesanti, allora, e anche gli atteggiamenti provocatori dei giocatori vanno puniti eccetera, allora bisognerebbe proseguire su quella linea lì. Dare 8.000 euro significa un po' non decidere, si capisce. Diamo una multina e poi vediamo, vediamo un po' come posso va. Posso farvi una domanda? Devi. Voi siete più informati di me, ma in Italia non esiste la regola che impone o consiglia o suggerisce all'arbitro di sospendere la partita nel caso di reiterati cori razzisti e con partita persa alla squadra la cui tifoseria in teoria, si marchia di quello? In teoria esisterebbe, Antonio, esisterebbe anche il divieto di agguati, no, sul Ponte Milvio, che in genere d'accordo, sono i tifosi, ma questo, gli arbitri, cioè, io a me piacerebbe vedere una volta un arbitro che sospende una partita. Lo so. Esiste in tutta Europa e ti dirò che c'è un precedente solo. Nel senso che cuor di leoni no, non è che ce ne siano tanti nemmeno altrove. Qui, però una volta l'abbiamo vista. Sì, sì, una volta almeno è accaduto. Questo è storicamente vero. Da Roma, Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io considero questa storia di Mourinho triste. E soprattutto triste, ancora più grave, il comportamento poi della società. Penso sia una brutta pagina per i giovani che si avvicinano a questo sport, e considero Mourinho effettivamente un cialtrone, perché a base delle sue considerazioni ci sono delle cose false, perché non è vero che non si è parlato della crisi del Milan o della crisi della Roma, ci sono settimane e settimane di giornalate in sostanza dedicate a questo. Adesso viene preso di petto Ancelotti, adesso Spalletti, quindi quello che dice lui è falso. È un, dal mio punto di vista è un mistificatore, io concordo con lei su questo. Né il test di scarico e nemmeno l'avvocato difensore sono del suo avviso. Sa cosa? C'è un'altra nel riascolto testuale dei 7 minuti di Mourinho di ieri, c'è un'altra cosa iettatoria, tra l'altro, che è questa: la Roma arriverà a fine anno con 0 trofei. Ora, arriverà a fine anno con 0 trofei se va fuori all'Arsenal e se non vince la Coppa dei Campioni. Io sinceramente devo dire che da ieri ho deciso che in Coppa Campioni farò il tifo per la Roma, perché devo dire che a me, che proprio non me ne può fregare di meno, come credo sia universalmente noto, di questa, di questo, di quest'altra, dopo la frase di Mourinho ieri, non so cosa pagherei di tasca mia per vedere la Roma all'Olimpico, che gioca la finale di Coppa dei Campioni e la vince dedicandola allo Special One, o no, Mauro? Beh, insomma, no, diciamo che lì gli è un po' scappata. Io ripeto, un po' di prudenza quando le cose non si sono chiuse. Apposta, però la preferisco, ecco. Però il grande comunicatore ogni tanto slitta la frizione anche a lui, professore. Sì, io non so se voi lo sapete, io ho un difetto che mi riconosco, sono molto invidioso, quindi quest'anno di Coppa dei Campioni non voglio parlare okay, perché l'invidia mi sale. Capisco. Non essendoci come squadra. Capisco. No, ma questo però è ancora una volta, adesso non voglio neanche esagerare, però è il bello di Mourinho questo, perché è triste, è il bello di Mourinho, cioè è uno che osa dire qualcosa su cui può anche fare la figuraccia che gli state augurando. No? Vabbè, perché allora scusa, te ne giro un'altra. Sta augurando, gli sta augurando. te ne giro un'altra, allora, di considerazioni. Quando lui dice che domenica prossima tanto varrebbe che Torino e Udinese mandassero in campo la primavera, e lo dice testualmente, lui, oltre a mancare di rispetto a, insomma, no, non so a quante persone, manca soprattutto di rispetto a un personaggio chiave, secondo me, che si chiama Pierluigi Collina, e ai due arbitri che Collina designerà per domenica, più assistenti e più quarto uomo. Almeno da questo punto di vista, siete disposti, testa di scarico e avvocato difensore, ad ammettere che è un cialtruan o no? No, ma allora io due cose brevissime. Non vedo machiavellismi come invece abbiamo ha scritto la Gazzetta dello Sport Condò. Oggi. Non vedo, cioè, tutto questo è finalizzato ad avere la condizionale l'arbitro di Inter, Juventus o anche quello di Svevo. Non vedo machiavellismi. Vedo sicuramente un andare un po' fuori dal seminato, andare fuori dai fogli, come si dice, dalle mie parti, però questo è il bello di Mourinho, ecco, ancora insomma non ha mica detto niente di gravissimo, insomma, come diceva prima Neazza, stiamo giocando, continuiamo a giocare, insomma. Sì, addirittura io vorrei ribaltare la cosa un po' provocatoriamente, ma insomma divertiamoci un attimo, ma immaginiamo la conferenza stampa rituale, la tal squadra di grandissimo valore, il tal campione non lo scopro certo io, la palla, cioè è una noia terrificante. Allora meglio Mourinho, che dice no, basta, tanto qui è tutto viziato, e non solo è viziato perché ci sono delle squadre più aiutate di cui non si parla, ma anche perché non se ne parla, ecco, questo alla fine è l'atto d'accusa. Poi che sia spumeggiante nei modi e forse un po' travolgente, tant'è vero che non si fa fare domande, parla solo lui, certo. Questo sono disposto ad ammetterlo, ma solo questo naturalmente. Per i cori razzisti contro Sol Campbell, mi informa Antonio da Brescia, 12 tifosi del Tottenham sono stati anche arrestati, non solo, ma condannati a un anno di carcere. Tocca a Carlo dalla provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno al signor Garanzini e a tutti i suoi ascoltatori. Sì. Senta, io volevo dire, io non so adesso Mourinho che cosa... intanto mi esco al coro di coloro che pensano che sia un mistificatore della realtà, a me sinceramente la mia bassezza mi sembra abbastanza chiaro, insomma. Però voglio dire, adesso questo tecnico, io non so che cosa possa insegnare tecnicamente o tatticamente a un giocatore come Ballotelli. Una cosa è certa, io penso che questo giocatore Ballotelli, cioè, sia proprio nella condizione, se non altro, da non poter imparare da uno come Mourinho il fair play, oppure proprio il come ci si comporta nel campo. E poi voglio dire, ma le società avranno pur qualche responsabilità quando vanno a acquistare giocatori a 16, a 17 anni, e anziché pagare gli psicologi per capire perché non segna, non possono pagare gli psicologi per farvi capire come si sta il mondo, anche all'interno di un campo di calcio, voglio certo. dire. Certo, certo. E invece di, ma io andrei avanti, e invece di accettare i monologhi di Mourinho, ma non possono le prostitute intellettuali, no, che fanno il mestiere che ieri Mourinho diceva, ma non possono dire, scusi, però una domanda la lascia anche noi ogni tanto, come mai lei ha suggerito all'Inter l'acquisto ad ogni costo di Quaresma a quei prezzi così stracciati? Lei è fiero di aver fatto anche l'interesse della società da questo punto di vista? Oppure, in base al gioco che l'Inter ha espresso contro Manchester e poi Roma, la doppia trasferta Genoa-Manchester, che insomma qualche incidenza può averla nel futuro della stagione dell'Inter su entrambi i fronti, come le pone? Come sta pensando di organizzarla? E lui invece fa le cose. Come ogni giorno, anche oggi, questa è l'ora del ripasso di storia. Il 4 marzo, nella storia dello sport, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 4 marzo 1979. Il Catanzaro di Mazzone sbanca l'Olimpico infliggendo alla Roma di Valcareggi un netto 3-1. Protagonista assoluto della partita è il piccolo bomber Massimo Palanca, autore di tutte e tre le reti, una delle quali realizzata beffando il portiere giallorosso Paolo Conti direttamente da calcio d'angolo. Una specialità del suo scarpino sinistro numero 37. 37 come le reti segnate in Serie A col Catanzaro in 4 stagioni. Nel 1981 Palanca passerà al Napoli per la cifra impegnativa di 1 miliardo 350 milioni di lire, ma in maglia azzurra non saprà ripetere le prodezze che lo avevano fatto diventare un idolo in Calabria. Mauro Meazza stava annuendo vigorosamente a questi, no? A questa ricostruzione cronologica e alle suggestioni poi di sto piedino di Palanca che quando colpiva fatato davvero. Visto che sei come d'altra parte Giorgio Simonelli, ma adesso tocca a te, visto che sei un cultore vero e proprio e visto che tu sei uno di quelli che le partite dell'Inter le vanno a vedere allo stadio regolarmente e non da casa, da appassionato, spostiamo un attimo il tiro, da appassionato, da tifoso, da competente, ma ha portato qualcosa di nuovo, di interessante, di significativo Mourinho da un punto di vista tecnico? Oppure tutto questo suo girarla sempre sul mediatico in realtà non nasconde anche il fatto che ci si aspettava? Ma io credo, visto da tifoso, per carità, perché io non voglio fare l'allenatore aggiunto né ambisco a sostituire Mourinho sulla panchina, posso invidiargli per carità la retribuzione, ma quello come molti di noi, credo che abbia portato un po' di più l'accento sulla cosiddetta intensità, come la chiama lui, qui recuperando un termine che se non sbaglio era sacchiano, cioè l'intensità che lui ha evocato anche domenica, dicendo serve, se non sei intenso, se non hai intensità giochi anche male. Quindi fatalmente la squadra diventa un po' più muscolare, con il che se il gioco è veloce è bellissimo, effettivamente di grande impatto, capisco che il mio giudizio può essere di parte, ma lo trovo molto gradevole. E se il gioco rallenta, quindi l'intensità, per dirla alla Mourinho, viene meno, allora qualche dubbio in più sorge, sembra forse vengono anche più alla luce alcuni posizionamenti in campo su cui non capiamo sempre. C'è da dire che lui ama anche molto cambiare, perché come sappiamo tra i primi e i secondi tempi cambia numeri delle punte dei difensori secondo la necessità, anche, no? Sì, sì, abbiamo visto anche tra i quarti d'ora anche. Hai ricordato Sacchi, allora tornerei automaticamente, no? E in questo caso tornerei dal rossonero più che dal test a riscarico, perché Giorgio Simonelli, milanista, è stato citato Sacchi. Ora stiamo parlando di due ayatollah, entrambi con atteggiamenti, poi per carità molto diversi, ma insomma di due che hanno, uno nel passato e l'altro nel presente, hanno rotto schemi, hanno rotto argini, hanno rotto anche ma insomma comunque stanno rompendo. Vorrei arrivare a questo. Io da neutrale vedevo comunque nel gioco di Sacchi, pur non amandolo, una mano che in questo non vedo, onestamente. Che adesso faccio il milanista. Fin dall'inizio. Di Sacchi ce n'è uno solo. Io dico, una cosa semplicissima, c'è un prima di Sacchi e dopo Sacchi. Prima di Sacchi le formazioni si enunciavano in un certo modo, dico, non so, per la gioia di Meazza, Sarti, Burni, Sacchetti, cioè, dopo Sacchi si è cambiato il modo di enunciare le formazioni, credo che basti questo per dire quanto ha cambiato nel calcio quell'uomo. Mourinho questa cosa ancora non l'ha fatta. Mourinho sicuramente, come dice Meazza, ha portato a grandi livelli un certo tipo di gioco, ma insomma il vero rivoluzionario è Sacchi. Sì, posso dire una cosa alla Mourinho? Dopodiché ci sono 19 squadre che invidiano la posizione della squadra di Mourinho. Dopodiché ci sono 19 squadre che invidiavano anche la posizione della squadra di Mancini. No, mi risulta, non vorrei dimenticare. Sì, ma io volevo proprio utilizzare, volevo proprio fare una citazione di Mourinho, perché è la sua frase di un altro incontro in cui gli obiettarono che stava girando, finendo il girone d'andata sotto di non so più quale raffronto con le statistiche precedenti, e lui rispose: sì, infatti ci sono tutti gli altri 19 allenatori che vorrebbero essere qui al posto ma mio. Ma non c'è dubbio che volevano rispondere. Però insisto, volevano stare anche al posto di Mancini, no, 40 o 50 milioni di euro prima, tra l'altro, che sono Quaresma, Mancini, quello con la S pronunciato dai bravi telecronisti, e Muntari. Roberto, provincia d'Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo intervenire anch'io su Mourinho, perché veramente non lo sopporto quasi più. Intanto l'accostamento a Sacchi, io essendo milanista, lo lascerei stare, anche se solo per la parola intensità. Mi sembra che Mourinho abbia dimostrato di giocare con intensità male dall'inizio del campionato. Questo è l'unico accostamento con la parola. Poi voglio dire una cosa. Si è detto, ma magari non gioca granché bene, a me veramente non piace assolutamente il suo modo di giocare, visto che fare allenatore dovrebbe essere una delle caratteristiche principali di un allenatore, no? Lei è sulla buona strada per diventare una prostituta intellettuale, Roberto. Io l'avviso, la metto sull'avviso, perché non può permettersi di liquidare così, come un brutto calcio, quello che ci ha portato il profeta. Insomma, questa è una mia opinione, ma insomma mi sembrerebbe il caso di avvertirla. No, però io su questo non sono così negativo, insomma. Poi il piacere dipende anche molto dall'occhio di chi guarda, perché chiaramente per me vedere l'Inter comunque davanti rende tutto più gradevole. Ripeto quello che dicevo prima, adesso non volevo essere blasfemo nei confronti di Sacchi, io trovo questo paragone proprio nell'intensità e non solo, ma anche nel senso di sacrificio in qualche modo che Sacchi chiedeva alla sua formazione, alle sue formazioni, c'è questa specie di coesione che anche Mourinho sembra chiedere all'Inter, quindi ci vuole una dedizione, se non si gioca come dice lui, si viene sostituiti sì. rapidamente, eccetera. Ripeto, secondo me giocando in velocità l'Inter non è così brutta da vedere, è molto muscolare, certo, e questo può non piacere a qualcuno che magari apprezza più un calcio di fino e ragionato. È anche vero che però oggi anche i colpitori migliori sono colpitori veloci. Ma quelle sono le caratteristiche dei giocatori, no? Cioè, sono strutturati così e la squadra era già così lo scorso anno, insomma. Era già abbastanza muscolare, in questo modo è stato un po' esaltato il suo lato. Io devo dire che con un paio di eccezioni quest'anno, un paio di eccezioni non di più, personalmente trovavo che questa caratteristica di forza che l'Inter ha nelle giornate migliori, che mi faceva venire in mente gli All Blacks, io la vedevo di più nell'Inter dello scorso anno che non in questa, sinceramente, con un paio di eccezioni di partite di quest'anno, ma questo è ovviamente sul soggettivo. Stiamo andando in discesa, vorrei sentire ancora Giacinto che è in linea da Genova. Sì, buongiorno signora Garanzini, grazie per aver chiamato. Prego. Naturalmente riguardo le dichiarazioni di Mourinho io non le vorrei commentare, semplicemente perché essendo d'accordo sia contro sono comunque di cattivo gusto secondo me, quindi io volevo rimarcare invece la posizione invece della società Inter, che non si è dissociata, se non dissociata proprio, comunque non ha preso un attimo le distanze, visto che comunque il signor Moratti è tacciato di essere molto signorile, mentre ritengo che negli ultimi 3 anni, cioè da quando è iniziato l'Inter a vincere qualcosa più o meno a tavolino, ha avuto parecchie uscite che di signorilità hanno mostrato ben poco. Questo per quanto riguarda la società. Per quanto riguarda Mourinho tecnico, io non sono d'accordo col vostro ospite, non mi ricordo il nome, interista, non credo che abbia portato tanto, se non intensità. Io la vedo in parecchie squadre, non è l'unico a predicare l'intensità, quindi Giacinto, Mauro Meazza bisogna prendere da interista. Se parliamo, ripeto, di responsabile di norme e tributi del Sole 24 Ore, allora è un'autorità in materia, e poi il tifo può darsi che contagi un pochino anche lui, no? Sì, no, volevo dire una cosa però, questo accenno alla cosa tavolino, gli scudetti di cartone, eccetera, ecco, su questo sì vedo un po' di coazione a ripetere, un po' di quel professionisti del prime time di cui parlava Mourinho ieri. Sì, cioè, però c'è stata un'insistenza, allora quella pagina sì, lì per uno può stare dalla parte che vuole, però quella pagina lì del nostro calcio non è per niente bella. No, però continuare, Mauro, scusami, vado dal responsabile della comunicazione e gli ricordo a questo proposito che supponiamo che sia stato l'ultimo a parlarne, il penultimo a parlarne è stato Mourinho a Bergamo quando l'ha detto ai suoi giocatori, o no? Che peraltro dovevano tenerlo per loro, però. Che doveva tenerlo per loro, pensa che bell'ambientino ha creato, dico bene Giorgio? Ma questo però siamo sempre sotto l'effetto Mourinho. Io volevo tornare un passo indietro. Dai. Quando si è detto che... Però in estrema sintesi, ti chiedo scusa perché ci restano 20 secondi. 20 secondi, allora, brevissimo, se Mourinho rispondesse alle domande su Quaresma, su Balotelli, noi non saremmo qui a parlare di Mourinho. Berselli non farebbe i titoli in prima pagina della Repubblica, sarebbe un normal one, e invece è Mourinho. È Mourinho. Io ringrazio, mi spiace che la conclusione sia brusca, ma insomma il tempo mi è passato senza che avessi l'orologio sott'occhio. Quindi grazie al professor Giorgio Simonelli, grazie a Mauro Meazza, abbiamo giocato oggi insieme, anche cercando di alleggerire quello che ieri invece era molto greve, ieri a quest'ora. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, a Filippo Uregi in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.